Sconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Allora, io non so se possiamo o no aprire ufficialmente il processo all'Inter. 800 24 00 24, prenotatevi da adesso fino alle 19. Oggi cerchiamo di prendere tante telefonate, quindi centralino 800 24 00 24, oppure per i vostri SMS e per i vostri messaggi WhatsApp 349 238 6666. Era una domenica normale, anche un po' noiosa, diciamo la verità, fino al 92esimo di Inter Carpi, poi Kevin Lasagna, primo gol nella sua carriera in Serie A, ci ha messo il pepe. Inter 1, Carpi 1, 5 punti nelle ultime 5 partite. Inter raggiunta al terzo posto in classifica dalla Fiorentina, magari stasera rientra la Roma anche nella gara per un posto in Champions League. Di sicuro il Napoli avanti 6 lunghezze dà l'idea di essere irraggiungibile. Saluto Carlo Genta, ciao, ciao Carlo. Giovanni, ciao a tutti. Saluto anche Fabrizio Bocca da Repubblica, ciao Fabrizio. Ciao a tutti. Io non so se possiamo aprire ufficialmente il processo all'Inter e non alle intenzioni ma ai risultati, oppure se è ancora il caso di parlare di combinazioni. Cosa pensi tu Fabrizio, cosa pensi tu Carlo? Fabrizio. Il processo per una squadra comunque è seconda o terza in classifica, si possa parlare di processo, però è chiaro, uno scadimento dei risultati nell'ultimo mese e mezzo c'è stato, perché è una squadra che comincia ad avere paura di San Siro, gioca nettamente male a San Siro, ha perso in casa con la Lazio, ha perso con il Sassuolo, ha pareggiato col Carpi, ho visto che sono anche cominciati a fioccare i primi fischi, quindi è chiaro che qualcosa sta succedendo, c'è uno scadimento di rendimento, continua a fare pochi gol e invece ne prende qualcuno in più. L'equilibrio è talmente sottile con l'Inter, per cui poi capita che succedano queste cose. Anche se dobbiamo dire la verità, oggi è tutto tranne che casuale il pareggio. Io non so cosa ne pensano anche gli amici a casa, magari chi sta uscendo da San Siro. Oggi è stata una brutta partita quella dell'Inter, brutta, perché il gol del Carpi sarebbe tranquillamente potuto arrivare anche prima, anche nel primo tempo, anzi era anche arrivato. Poi parleremo anche della questione arbitrale, perché oggi ne abbiamo viste di tutti i colori e non solo a San Siro. No, anche all'Olimpico, sto rivedendo le immagini. Oggi c'erano due risposte che chiedevamo a questo pomeriggio, a questa giornata, dopo la settimana che abbiamo passato sul traghetto nel fiume dei veleni. Volevamo vedere se c'erano stati contraccolpi ed effetti sul Napoli, e alla fine non ci sono stati, perché Napoli ha vinto 4-2 a Genova con la Sampdoria nel segno del solito Higuain, di Hamsik che ha fatto un gol bellissimo, e poi volevamo vedere appunto la reazione dell'Inter. La reazione dell'Inter è stata onestamente deludente, quindi forse è il caso di dire che aspettiamo di vedere questa sera, ma la Juventus, io sono convinto, batterà la Roma e quindi il treno dello scudetto sta andando via. E l'Inter rischia di rimanere alla stazione. Treno che mi sembra per l'Inter assolutamente passato. Ma assolutamente magari no, certamente è un momento di difficoltà come possono capitare in stagione, bisogna vedere quando l'Inter ne esce e quando l'Inter ne uscirà, quanti punti avrà di distacco dal treno dello scudetto. Ma hai l'impressione, Fabrizio, ci sia un problema di condizione atletica da quando è ripartita la stagione? Guarda, io forse sì, un qualcosa c'è, però ripeto, a me l'Inter che vinceva a inizio campionato non mi sembra poi un Inter così diverso. Prima era un Inter secondo me anche un po' più fortunata, adesso è un Inter un po' più sfortunata. Però Fabrizio ti dava l'idea dell'Inter. L'Inter ti dava un'idea di Fabrizio ti dava un'idea di una squadra che queste partite non le perdeva, che le partite con le squadre di rango inferiore non le perdeva. Se oggi Andanovic avesse fatto una bella parata sulla Sagna come ne ha fatte tantissime, sarebbero stati 3 punti, avremmo parlato in altra maniera dell'Inter. È sempre giocata su questi l'Inter ha una valutazione sempre molto falsata a causa di alcuni valori, perché la grande difesa che ha l'Inter, perché tuttora mi sembra la miglior difesa, sì, la miglior resta difesa la migliore del campionato, è influita, è dovuta anche al grandissimo campionato che ha fatto Handanovic, ma veramente sopra la media. Handanovic oggi ha preso un gol, insomma, forse poteva anche evitarlo. Adesso sì, non lo so, in altre occasioni. Non è ad Handanovic, credo, che si possa imputare quello che sta succedendo in questo periodo all'Inter, anche se oggi il diagonale di Lasagna non era magari irresistibile. Sì. Magari allora si può allargare il tema sul fatto che, arrivati a oltre metà stagione, l'Inter è ancora ferma lì e Mancini non è ancora riuscito a dargli un'identità di gioco che evidentemente riesca ad andare oltre la capacità difensiva, le prodezze di Handanovic. Non solo ferma lì, c'è chi dice manca il culo adesso, per evitare di tradurre culo, questo messaggio 349-238-6666 questione di culo e di altro, però secondo me è cambiato proprio l'atteggiamento emotivo dell'Inter, perché ti ripeto, è cambiato un po' il vento, quindi mentre in altre occasioni l'Inter sapevi che poteva passare in vantaggio e poi difendere quel vantaggio in funzione non solo di un grandissimo portiere, ma di una fase difensiva che non lasciava grande scampo agli avversari, oggi invece hai avuto un'impressione diversa, al di là del diagonale, del gol di Lasagna, di una parata che Handanovic poteva fare magari essendo in questo momento il miglior portiere d'Europa, al di là degli episodi. Al di là degli episodi, ti dà un'idea di maggiore di minore solidità, di maggiore fragilità. Oggi io sottolineo, magari è sfuggito, ma all'intervallo Mancini, Fabrizio, è stato costretto a inserire Miranda, che in quanto diffidato era stato tenuto precauzionalmente fuori in vista del derby. Poi mercoledì l'Inter va a Torino con la Juventus, insomma, io credo che qualunque allenatore avrebbe potuto pensare di potersela cavare in casa col Carpi senza Miranda. Ebbene, dopo un primo tempo dove, ripeto, il Carpi avrebbe tranquillamente potuto segnare, alla fine dell'intervallo Mancini ha dovuto mettere dentro Miranda. Questi, secondo me, sono segnali l'Inter, importanti. L'Inter non ha né un gioco né un attacco da su tutte le partite. Credo che ne abbia vinte tipo 2-3 con più di un gol, con più di un gol di scarto. Quindi ha sempre giocato su una difesa mirabile, su una difesa ottima, mirabile. Nel momento in cui la difesa perde qualche colpo, è chiaro che il castello viene giù. Ma tante partite le ha giocate male, insomma. C'era quella col Sassuolo, anche parecchie vittorie in casa, ma anche inizialmente, anche un po' fortunato. Ma quindi abbiamo preso tutti un abbaglio pensando che questa sia una squadra che può chiudere terza, quindi dentro l'obiettivo del posto in Champions League. Lasciamo stare lo scudetto, che è stata, diciamo, un'illusione. No, io non credo. No, secondo me ce la può. Nel senso, è talmente le altre squadre hanno un andamento talmente altalenante che può succedere tutto. Poi vediamo anche che cosa fa l'Inter sul mercato, perché se apporta delle correzioni sul mercato, davvero dovesse arrivare una punta esterna, non so se riusciranno a fare in tempo a prendere la Lezzi, non credo adesso a gennaio, ma insomma qualcuno del genere può essere può cambiare il senso. Un'altra cosa è che Icardi non è sicuramente quello dello scorso anno, o forse era Icardi, diciamo così, molto più sullo scorso anno, diciamo supervalutato, sì, lo scorso anno. Anche oggi non bene, possiamo non bene però per dire... usare un eufemismo. Aspettate che vi faccio sentire una battuta di Amsic a Sky, bordo campo. A vincere e portare pesanti 3 punti. Soprattutto perché poi, insomma, in chiave Champions, diciamo, non in chiave scudetto, comunque c'è stato un po' di faccia, il pareggio dell'Inter, che insomma è una concorrente diretta per i primi posti. Ti chiedo proprio sull'Inter, quanto hanno influito o se ci sono state delle scorie del post partita di Coppa Italia? No, noi siamo contenti che a restare a diretta ha perso punti, però noi dobbiamo pensare a noi e fare le nostre partite. Adesso pensiamo alla prossima, che giochiamo in casa, e in casa sicuramente volevamo 3 punti. Quali questo sono, Amsic, l'avversaria diretta, in questo caso l'Inter, è a 6 punti, comincia a essere avversaria indiretta. Cioè però possiamo dire vicino. Che la settimana del Finocchio non ha lasciato nessuno strascico, cioè non ha lasciato contraccolpi. La solita Inter e il solito Napoli. Esatto. Fabrizio. No, credo che il Napoli l'abbiano tutto quello che è successo l'abbiano poi rigirato a loro favore, nel senso che la squadra si è molto caricata, si è sentita molto attacco, oggi la squadra era particolarmente avvelenata, insomma ci sono stati anche parecchi errori difensivi, ma insomma l'attacco del Napoli e quello dell'Inter non c'è proprio confronto, ce ne vogliono tre, credo, di quelli dell'Inter a confronto di quelli del Napoli, perché va veramente in gol ormai non solo con Higuain, ma stanno aumentando i gol anche degli altri, di tutti gli altri giocatori, di Amsic, Insigne, insomma ormai cominciano a segnare anche gli altri. Sì, Mertens, anche chi entra come Mertens, poi il limite del Napoli è che la rosa è abbastanza poco profonda. Sì. Napoli che in questo momento continua a star bene e a questo punto non è più una novità. Grazie Fabrizio. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti, grazie a voi. Grazie Fabrizio Bocca. Dopo vi leggo i messaggi che stanno arrivando. 349-238-6666. Aspettiamo anche Mancini e Sarri. Gli ascoltatori ai microfoni dicono delle televisioni. Perché Mancini è un allenatore? Punto di domanda. Oppure ancora dobbiamo dire la verità, e cioè che Mancini non è in grado di allenare senza spendere e espandere per grandi calciatori. Fate un paragone con Donadoni, oppure un altro che scrive: ma quale processo? L'Inter vale il quinto posto e arriverà a quinta o sesta, ci siamo illusi tutti. E poi un altro amico, Alberto da Sassuolo: Mancini è il colpevole, non c'è gioco, non fanno due passaggi di file non da oggi, quindi la colpa è dall'allenatore. 800 24 00 24, c'è già Costantino da Aosta, gli chiedo un minuto di pazienza perché c'è il traffico. Kevin, fino a qualche tempo fa venivi in questi stadi quasi da spettatore, poteva essere un sogno, no, giocarci, ma addirittura fare il primo gol in Serie A qui a San Siro, che emozione è? Sì, esatto, come hai detto te, è stato un sogno fare il gol qua a San Siro, che comunque la scala del calcio te lo terrò per sempre, primo gol in Serie A. Tutti convocati. Tutti convocati. Barreto manda in porta Higuain, che stavolta non perdona. 21 gol in 21 partite, è sempre il Pipita. Higuain, oggi ne ha anche sbagliato uno, a porta praticamente spalancata. Ma è umano. E poi, insomma, l'avete Viva sentito. Dio, è umano. Sì, c'è un amico che dice: nessuno ha detto che il primo gol del Napoli, quindi quello di Higuain, è viziato da un fallo di Barreto, su Barreto al momento del retropassaggio, perché poi è un regalo della difesa della Sampdoria, non lo so, amico. Sarà anche questo, ma il Napoli ne ha fatti 4. Di cose che poi ne parliamo, della questione arbitrale, perché oggi è stata una domenica, secondo me, pessima per gli arbitri. 800 24 00 24, stiamo però facendo il processo all'Inter di chi è la colpa di questo evidente rallentamento e cosa può fare oggi l'Inter. Io faccio fatica a trovare una prospettiva. Costantino da Aosta. Costantino. Sì, ciao. Eccoci. Faccio questa chiamata in collaborazione con mio figlio Matteo di 11 anni, che va bene. In realtà doveva parlare lui, ma parlo io. No, quello che volevo dire è che probabilmente tutti questi 1-0 con cui l'Inter se l'è cavata nel girone d'andata, prima o poi secondo me dovevano presentare il conto, nel senso che a memoria mia campionati vinti con tanti 1-0, ma con così tanti 1-0 non ne ricordo, e probabilmente oggi più di una volta è diventato difficile riuscire a vincere dei campionati o comunque tenere la testa della classifica con squadre muscolari che non pensino però a un centrocampo costruito per fare qualcosa di gioco. Oggi è molto più, vedo sia in Europa sia nei campionati nazionali, non si vedono, correggetemi se sbaglio, esempi di squadre che sono lassù senza avere un impianto di gioco. Sì, però io voglio dire una cosa, cioè questo ragionamento, se si pensa che l'Inter potesse vincere lo scudetto, può anche andar bene, ma oggi c'era da tenere una partita comunque in cui è ripassato in casa in vantaggio contro il Carpi. L'Inter ha giocato un secondo tempo completamente illogico. Non è un caso che il Carpi abbia pareggiato. L'Inter poteva raddoppiare, per carità, le occasioni ci sono state. È stata una partita diversa rispetto agli altri 1-0 dell'Inter, Giovanni. Perché nelle altre partite che l'Inter ha vinto 1-0, grazie intanto Costantino, grazie, ti dava l'impressione di, insomma, di non soffrire e di non subire così tanto. Oggi invece questa sensazione non te l'ha data, quindi il Carpi ha segnato quando c'era aria di pareggio. È normale che una squadra possa attraversare un momento di difficoltà anche fisica, Non trovo normali invece, non trovo normali le critiche a Mancini, perché Mancini in quest'Inter insomma è l'uomo del presidente, è l'uomo squadra, l'uomo società, l'allenatore, Però è anche responsabile se il gioco non migliora. È responsabile se a metà stagione l'Inter è appesa gioco... allora alle parate di Handanovic, però all'inizio stagione e bastano fare diceva? Un miracolo per obiettivo, non vincere col Carpi, obiettivo terzo posto, l'Inter è stata a lungo anche al comando della classifica, quindi se teniamo per buone le dichiarazioni della vigilia, l'Inter è pienamente in corsa per il terzo posto e secondo me a quel terzo posto pure ci arriva. Poi vediamo quando esce dal momento di difficoltà quanti saranno i punti di distacco rispetto alle prime sì, due. Senti qui, Piero da Torino via WhatsApp, mi sa che Mancini più che Sarri dovrebbe ricominciare dalla Serie C. Poi c'è un altro amico sempre su WhatsApp che cita Arrigo Sacchi. Ha ragione Arrigo Sacchi nel giudizio che dà sul non gioco dell'Inter di Mancini. Perde il senso della misura quando le cose non vanno bene, quando cominciano a scarseggiare i risultati, quando la squadra attraverso un momento di difficoltà si perde anche un po' il senso della misura. Il senso della misura dell'Inter è che è terza, il terzo posto è ampiamente alla portata dell'Inter, anzi secondo me è la grande favorita per il terzo posto. Sono curioso di capire quando uscirà da questo momento se sarà troppo distante per concorrere con Napoli e Juventus. Quanto saranno le macerie. Gianni da Firenze, Gianni. Sì, buonasera. Eccoci. Complimenti. Volevo dire, Mancini ha provato a fare la trappola per Sarri, ci ha provato ma non ci è riuscito. Allora, il complotto per destabilizzare il Napoli. Il consiglio è da Mancini, impara ad allenare, perché ha comprato 75.000 giocatori e non è capace neanche di battere il Carpi. Questo è il mio punto di vista, non so cosa ne pensate voi. Grazie. Beh, mi pare che anche il Napoli non aveva battuto il Carpi, o mi sbaglio Giovanni? Anche il Napoli non ha battuto il Carpi, ci ha pareggiato a Carpi. Sì, per carità, Carpi, squadra che sta affrontando con grandissima dignità e attenzione questo campionato di Serie A, però ripeto, il problema è che anche in un momento di crisi una partita come questa tu non puoi giocarla come hai fatto soprattutto nel secondo tempo l'Inter. Abbiamo lanciato anche il sondaggione su Twitter su di chi è la colpa. Siamo al 50% le scelte di Mancini, poi l'atteggiamento dei giocatori, cattiva sorte e mercato che non sta dando nulla a gennaio all'Inter hanno percentuali residuali. Saluto Boris Sollazzo, ciao Boris. Buon pomeriggio a Hola, tutti. Hola, come stai? Bene, benissimo. Sono un po' arrabbiato per questo Napoli che prende gol da 5 partite consecutive, ma credo che mi consolerò. Hai ragione, oggi ne ha beccati due. Non andiamo bene, non andiamo poi così bene. No, attenzione. È il peggior Napoli delle ultime settimane, poi bisogna essere onesti. È un Napoli che se Cassani non avesse follia di fare 3 falli in 20 minuti molto gravi, di cui l'ultimo delirante perché era a centrocampo senza nessun motivo già ammonito, forse adesso non sarebbe festeggiando. È un Napoli che ha avuto il regalo all'inizio e che poteva chiuderla subito ed è stato molto lezioso. È un Napoli pure che però ha fatto la stessa cosa che ha fatto a Bergamo: quando le cose hanno cominciato a girare male ha saputo soffrire, ha saputo chiudersi dietro. E adesso io non voglio ricominciare con la storia precedente, però se poteva essere destabilizzato l'ambiente, in verità questo gruppo è talmente forte che si è stretto attorno al suo allenatore. Boris, questa storia dell'ambiente destabilizzato non ha prodotto risultati. Oggi c'era un tifoso del Napoli che si è presentato a Marassi con un finocchio, tifoso italiano medio. Boris, possiamo dire che questa la tirata fuori... Aspetta, che questa cosa, perché l'ha detta prima anche l'amico di Firenze, del complotto studiato da Mancini in 2 minuti per destabilizzare Sarri era una pagliacciata? Lo possiamo dire adesso che le bocce finalmente si sono fermate? Io posso dirti una cosa, siamo tutte persone intelligenti e voi grandi comunicatori, io no, ma sicuramente Mancini è anche grande comunicatore. Io non mi sarei arrischiato a dire una cosa del genere sapendo di aver detto la stessa cosa in passato, quindi se lo fa perché in qualche modo vuole creare un danno all'allenatore avversario. Beh, non c'è riuscito, mi pare, no? Cioè non mi pare che non c'è riuscito, perché secondo me gli è scappato di mano e perché poi è stato così ingenuo da non pensare che quella cosa sarebbe uscita fuori in un periodo in cui internet ti consente di sapere tutto. Però insomma, io voglio dire, fare anche l'ingenuo e pensare che non esistesse anche la voglia di destabilizzare, poi per carità, la buona fede di Mancini probabilmente in questi 14 anni ha fatto un percorso riguardo al rispetto altrui molto importante, e sono contento per lui e spero che lo faccia anche Sarri, perché poi fuori dagli la prima cosa che ho sentito dire da un amico e collega su Extra Napoli è che a Mancini è andata di traverso la lasagna di finocchi, la lasagna sì. vegetariana. No, ma, noi andremo avanti fino alla fine dell'anno con queste cose. Però tendenzialmente, cioè, secondo me si è fatto una tempesta in un bicchiere d'acqua. Pensare che quello fosse una volontà, ha sbagliato Sarri, ha fatto una stupidaggine. Anzi, guarda, nonostante siamo sulla Radio 24, diciamolo proprio, una stronzata, perché così chiamata, e questo io non lo negherò mai. Detto questo, tutto quello che viene dopo, il dover chiedere scusa, mi pare che la stessa Arcigay ha tenuto l'atteggiamento più intelligente, insomma, sminuendo. Quindi sì, non bisogna farlo. Io continuo a pensare che l'idea che Mancini in 180 secondi sotto stress abbia partorito una strategia anti-Sarri, anti-Napoli, insomma, mi sembra abbastanza debole. Restiamo però un attimo, usciamo da questa cosa. Restiamo oggi. Comunque l'effetto, il contraccolpo su Napoli non c'è stato, perché oggi stavamo aspettando Napoli a quel varco, no? Per capire se c'era un effetto psicologico, se c'era se poteva esserci un contraccolpo a questa settimana molto difficile. Non c'è stato, invece l'Inter ha confermato di avere delle difficoltà, e anche qui è una cosa che va avanti da qualche giornata. Quindi nulla è cambiato dopo questa settimana di tempesta. Sì, nulla è cambiato. Io non so se Boris vuoi mandare una letterina a De Laurentiis. Manca una settimana alla fine del mercato. Il mio giudizio personale: il Napoli non sta cogliendo l'attimo. Grassi, ad esempio, è un ottimo prospetto, però anche l'andamento di questa settimana, al di là delle polemiche, dice che il Napoli non può pensare di arrivare in fondo giocando in 12 o in 13. Sono d'accordo, è anche vero che io non vedo il giocatore che può cambiare i termini di una squadra così, e allora se devi fare un mercato solo per accontentare i tifosi, io preferisco di gran lunga Gracia ad Herrera, cioè Gracia è comunque uno che ha mezza Serie A sulle gambe, Herrera è un giocatore portoghese che non sappiamo come giocherà nel campionato italiano, non ci sono fenomeni a disposizione in questo momento, cioè non c'è il Lavezzi che potrebbe prendere l'Inter. A Napoli non serve un Lavezzi. In quei ruoli in cui il Napoli ha la necessità di rafforzarsi non ci sono giocatori a disposizione. A questo punto Tonelli e Grassi possono essere Ciccio Romano del novembre 86. È ovvio che è una squadra, io continuo a dire, oggi secondo me la Juventus farà un boccone, un sol boccone della Roma. La Juventus creerà un ulteriore contraccolpo psicologico al Napoli, perché il Napoli vince da 5 partite e si ritroverà e la Juventus ad avvicinarsi, certo, e si ritroverà la Juventus ancora a 2 punti, una Juventus che sembrava fuori dai giochi, e questo alla lunga sarà un logoramento per una squadra che non è a stare là, e purtroppo è così, insomma. Là è stato bravo Marotta, l'attimo se lo dovevi cogliere in estate, come ha fatto Marotta, che ha fatto una rivoluzione, ha comprato tutti i giocatori sportivi. Forse De Laurentiis si aspettava un'annata di transizione, questo non è stato. Boris, devo salutare, che immaginava neanche lontanamente di poter essere qui, che abbiamo il meteo. Grazie Boris Sollazzo. Ciao Boris, a presto. Ciao Boris. 800 24 00 24. Mancini, grande manager, scarso allenatore, questo è Luca, non lo so, poi vediamo di sentirlo dopo la pausa. Che Higuain ci abbia un po' di febbre e che Insigne se ne rimane a casa. Fine. Il problema è risolto. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Sempre gli ultimi 6-7 minuti, perché 11 contro 10 non avrebbe voluto più prendere la palla, invece sono riuscito a fare l'ultima azione su una palla che avevamo noi, esattamente quello che è successo col Sassuolo, una palla nostra, un calcio d'angolo, abbiamo battuto, abbiamo preso il contropiede, rigore. Oggi palla nostra, io penso che l'Ajax lì, anziché andare, può andare verso la bandierina, perché poi in campo bisogna guardare il time e quindi vedere che la partita è finita, quindi si va sulla bandierina, non per dare colpa all'Ajax, mancherebbe, perché poi un attaccante quando è vicino alla porta pensa di fare gol, però questo dico che bisogna pensare, bisogna cercare di fare il secondo gol, perché sennò se non fai il secondo gol, poi ci sono delle partite che le difendi, va bene, poi altre che al momento così e ti va male. Ecco, questo, cioè, noi non possiamo prendere un gol così a difesa piazzata. Alessandro, questo è Mancini, volto terreo. Adesso andiamo avanti a cogliere quelle che quelli che sono i pensieri di Mancini. Intanto saluto Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Come va? Ciao Pierino. Bene, Mancini un po' meno. Scosso Mancini. Molto terreo. Lo vedo molto, sì, molto scosso, molto tirato. E del resto si sta sciogliendo un po' la stagione dell'Inter, che vive sui 15 punti fatti nelle prime 5 partite. Così provato Roberto Mancini. Pier, dammi il tuo pensiero in sintesi, che poi sentiamo ancora Mancini. Beh sì, mi sembra evidente, insomma, l'Inter non vince più, non c'è più in casa, 5 punti nelle ultime 5 partite, insomma, è chiaramente in rottura prolungata. Poi è ovvio che oggi la poteva portare a casa, ci sono gli episodi, è andata a pochi secondi per vincerla, però alla fine conta, e a quei livelli lì i dettagli fanno la differenza. Sì, anche se insomma era anche stata un'Inter fortunata all'inizio, insomma, aspetta che c'è ancora Mancini, così sentiamo ancora un po' il pensiero di Mancini. Quando sono tutti lì, se tu non riesci a girarli, è chiaro che fa un po' di fatica, però le due palle che abbiamo avuto per chiudere, cioè, sono state clamorose, eh? Se giocavo io a 50 anni forse facevo gol, quindi cioè, questo dico, cioè, non si può non far gol, ecco, qua non si può non far gol, cioè. Quindi è molto un problema individuale in questo momento? No, è un problema che dobbiamo capire, che noi abbiamo vinto 1-0 tante partite, va bene, può andare bene. Poi però ci sono delle volte che sei anche in un momento sfortunato, allora tu devi essere così forte, furbo, da sapere che sei al 93esimo, la palla va difesa e portata sulla bandierina, se c'è la palla da far gol devi far gol. Cioè, non esistono le altre cose. Quindi bisogna lavorare, perché si deve lavorare tanto. Quando si gioca con la Roma, con la Juve, si deve lavorare tanto quando si gioca col Carpi, per non dargli la possibilità di avere le occasioni per far gol. Questo noi dobbiamo migliorare, perché insomma adesso non lo stiamo facendo, ecco, certe partite. Cioè, a Napoli eravamo concentrati e tutto. Oggi, cioè, i giocatori offensivi devono difendere, perché se non difendono giocheremo con un attaccante da mercoledì in poi e basta. Gli altri stanno in panchina. Perché se non facciamo questo la squadra soffre, e tanto gol non ne facciamo. Quindi dobbiamo cercare di essere più veloci nell'avere le occasioni e far gol quando ci capita. Alessandro, allora, io ve l'ho fatto sentire, sto andando, mentre lo sentivo, andavo con la memoria al passato, ma anche al primo Mancini dell'Inter. Io non ricordo un attacco così duro e così circostanziato su un reparto e due o tre giocatori in particolare. Uno è Icardi. Perché uno, quello che l'avrebbe fatto anche lui a 50 anni, lo diciamo agli amici, nel frattempo gli stavano mostrando l'azione del 2-0 mancato da Icardi, che cade al momento di passo fuga verso di battere a rete. Quindi diciamo c'era un riferimento preciso, Pier. Sì, c'è un riferimento preciso, così come c'è un riferimento preciso, diciamo, più generale, ma comunque al reparto sul fatto che tanto non segnano, quindi a questo punto meglio avere un attaccante solo se non si sacrificano. E c'è anche un riferimento preciso al fatto che certe partite, evidentemente, nella testa di Mancini, la squadra le interpreta con il 100% di attenzione, di motivazione e di attenzione, e altre come quella di oggi, no. Sì, ma mi sembra Pier una rottura grave, cioè il 24 gennaio un allenatore che parla così della sua squadra, squadra che comunque è terza in classifica, mi sembra un dato poi da valutare. Ma non perdere l'orientamento, Pierluigi, perché comunque l'Inter è terza, l'obiettivo stagionale è la Champions League, dichiarato e realizzabile, in questo momento si sta allontanando dal treno dello scudetto. Però sarebbe altrettanto pericoloso in questo momento buttare via tutto, no? Quindi... Sì, però se Mancini è esperto adesso, sì. In queste ore sento dire che diventa però io immagino pista, stasera, no? Quando, esatto, leggeranno e sentiranno queste parole, no? Icardi, Jovetic, Ljajic, io non so come la prenderanno. È un modo per dare una scossa. Così pubblicamente. Insomma, voglio dire, gli allenatori utilizzano vari metodi, vari strumenti, certe volte fanno da scudo alla squadra, certe volte invece la squadra la mettono in fronte alle proprie responsabilità. Certo, è inusuale, non ci sono dubbi, è inusuale quello che ha fatto, cioè dica una cosa di questo tipo è abbastanza clamoroso, no? Questo non ci sono dubbi, però secondo me, ripeto, è una situazione che nasce dalla frustrazione e dalla voglia di svegliare alcuni giocatori che non ci sono. Sì, poi da casa invece sono in tanti a chiedere di svegliare Mancini. C'è Paolo che scrive: nella prima Inter c'era un certo Ibra che risolveva tutti i problemi. C'è chi dice: Mancini ha già fatto capire che l'anno prossimo non sarà più l'allenatore dell'Inter. Ecco da cosa viene, insomma, il suo atteggiamento. Secondo me no. L'Inter gioca una partita a settimana e lo fa anche male. 10 giocatori acquistati, tutti voluti da Mancini, che quindi è il responsabile. Oppure ancora un'altra mail. Guarda, ti sto leggendo una selezione dei messaggi che arrivano su WhatsApp. Meglio dell'Inter giocano anche Fiorentina, Roma, Lazio, Sassuolo ed Empoli. Adesso io non so se tutti questi, però io sono colpito dallo sfogo di Mancini. 800 24 00 24, Massimo da Massa. Massimo. Sì, buonasera. Eccoci. Io non intervengo. Buonasera a tutti, e non intervengo sul Mancini allenatore, sì. Sarebbe da discutere, ma sicuramente sul Mancini che è più un general manager nell'Inter, perché sì. Quest'estate ha chiesto quello che ha voluto e gli è stato dato. Ora che a gennaio comincia a scaricare la squadra, perché non questo qui non succede, ma lui non, è stato lui a scegliere questi uomini e ha fatto spendere un monte di soldi a tutta alla dirigenza, al presidente. Si diceva che Mancini aveva avuto tutto e lui si tira fuori, mi sembra quantomeno abbastanza sì. poco corretto nei confronti, e io non sono interista, quindi però vedendolo da fuori resto esterrefatto alle parole di Mancini. Pier. Io continuo a pensare che sia la fortuna dell'Inter invece Mancini in questo momento, in una società che è in fase di ristrutturazione, di ricostruzione. Mancini è quello che ha preso le redini della squadra, del club, è il punto di riferimento, è quello forte. Che fa il mercato, è l'uomo forte, quindi adesso è chiaro che è diventata una pipa al momento delle critiche, sì. Però ho fatto due conti al volo, 18 punti nelle ultime 11 partite, la frenata è prolungata. Pier, comunque, se vuoi rispondere a Massimo, poi c'è Gianluca da Milano. Pier. Ma sì, la frenata è prolungata e sai come la penso dall'inizio della stagione sull'Inter, l'ho detto mille volte che non la capivo. Sì, però adesso c'è un elemento in più, Pier, c'è un elemento, secondo me, queste parole di Mancini segnano un punto. Questo sicuramente un punto di svolta. Io non, a essere sincero, non è che vedo questo crollo dal punto di vista del gioco, cioè a me l'Inter non mi ha mai incantato, ha certamente delle qualità e dei talenti importanti, ha una potenzialità che però non si sta sviluppando, e questo è l'aspetto negativo, esattamente come la Roma di Garcia da novembre si è affossata, l'Inter di Mancini adesso da un mesetto fatica e fatica tanto, no? Sì, si è un po' ripiegata su se stessa. Si è un po' ripiegata su se stessa, le gerarchie non sono gerarchie ancora chiare e precise, perché evidentemente non c'è stata questa evoluzione in termini di gioco e in termini di giocatori, e quindi il risultato, il combinato risposto, come diciamo quelli bravi, di questa situazione qui è che la squadra sia adesso un po' in difficoltà. Poi certamente c'è anche l'episodio, così come all'inizio dell'anno in alcune partite l'Inter sì. è stata... Cioè, ma oggi fortunata. Non parlerei degli episodi, Pier. Dopo 5 minuti c'era un gol del Carpi assolutamente regolare, quindi adesso se vogliamo dire le cose come stanno. Gianluca da Milano, Gianluca, aspetta, Gianluca. Gianluca, sì, eccoci. Ci sono, ok. Ci sarebbero tantissime cose da dire, sì, dinne una. In questo momento. Vorrei parlare a questo punto di Mancini, che non capisco il motivo per cui... sull'1-0 inizio secondo tempo passi a una difesa 3 che è stato appurato che quest'anno la difesa 3 le poche uniche volte che è stata usata non andava bene. Metti Miranda che è disfidato ed sì. è forse per questo che l'ha lasciato fuori per non si sa cosa, ma insomma, se nel primo tempo in casa col Carpi, Gianluca, se nel primo tempo in casa col Carpi il migliore dell'Inter è Handanovic, perché questo è stato, io credo che probabilmente Mancini ha fatto 1+1, ha detto mi servono i 3 punti oggi anche a costo di perderlo Miranda, e poi uno ci prova. Il problema è che l'Inter non risponde dietro, cioè non risponde come qualità di gioco. Credo che sia questa la notizia di oggi, o forse non solo. 800 24 00 24, però adesso c'è il traffico, poi vi salutiamo, ripartiamo e benediciamo, amatissimi figli. Ora saremo in grado sì. di elargire il vaticinio sul futuro dell'attuale squadra nerazzurra, interessante. Ripetete insieme a noi la formula: utor calem Mancini, Mancini, Mancini, Pelon, sì. Finocchio, no, Din Don. No, no, com'è che finisce? Il che rituale poi c'è il per sì. esperire il vaticinio è finito. Così hanno sentenziato gli Elohim. L'Inter vincerà lo scudetto. Ecco, ci credo veramente vale. Poco. Traffico. Vi salutiamo e benediciamo. No, amatissimi figli, augurandovi traffico. Uno splendido traffico. Anno novello. Ecco, a proposito di quello che hai detto in prima in radio, tu hai detto che in Italia. La radio poi si cazzeggia. No, no, sì, sì, sì. Tutti convocati. Tutti convocati. Bacca, bacca, bacca, 1-0 Milan. Tutto va irraggiungibile. Zielinski che arriva a piazzare, 1-1, il pareggio dell'Empoli. Oltre noi, oltre le nuvole. Con Bonaventura per il 2-1 Milan. Se cerchi è buono il gol, 2-2. Riesci a sentire il rimpianto di te. Riesci a sentire il rimpianto di te. Buonaventura tocca il pallone, qui abbiamo intervento a braccia alte del difensore Maiano dell'Empoli. Questo è un fallo di mano volontario, questo era un calcio di rigore. Sì, sì, ma era rigore netto. Arbitro addizionale che fa là? Non capisco, se non riesci a vedere quella roba là, allora è che li usiamo la stare. Vabbè, fa niente. Fermo e restante ti trovo. Noi siamo venuti qua per vincere. Mi dispiace molto perché quando vai due volte in vantaggio devi portare a casa la vittoria. Ci è mancata la continuità, rabbia per chiudere la partita quando eravamo in vantaggio e con i cambi abbiamo dimostrato che volevamo vincere la partita perché abbiamo messo tutto quello che abbiamo a disposizione in avanti, abbiamo cambiato modulo e tutto. È un risultato giusto, giusto va bene c'è. Perché volevamo vincere, però c'è. Non è un dramma perché Empoli è una delle squadre che gioca meglio in Italia. Ci dispiace perché siamo andati due volte in vantaggio. Dobbiamo portare a casa vittoria. Ecco. Tutto va irraggiungibile. Oltre noi. A proposito di rimpianti, 800 24 00 24, saluto Franco Ordine. Ciao Franco. Così, ciao. No, c'è un dato che mi colpisce: l'Inter ha vinto una delle ultime 5 partite, se non sbaglio, il Milan 2. Cioè, questa è la fotografia del calcio milanese, dove se uno piange, l'altro non ride, compreso il Milan di ieri sera. Franco, allora il Milan di ieri sera, secondo me, insomma, denota i difetti di sempre. Quali sono i difetti di sempre? Non puoi contare sulla sua difesa che una settimana si dimostra come contro la Fiorentina in grande forma, la settimana dopo concede troppo all'Empoli che non è il Real Madrid. I difetti di sempre sono quelli di non riuscire a fare gioco, anzi di farselo imporre, e nonostante questo, pur giocando da provinciale, riesce ad andare due volte in vantaggio e per due volte si fa raggiungere. Questa è, diciamo, da questo punto di vista esiste questo tipo di continuità negativa. E poi c'è un dato, secondo me, che è il dato più, diciamo, allarmante di tutti, e cioè quando sembra che stia sul punto di decollare, si affrosciano le gomme e rimane piantato. Sì, cade la motivazione, come se giocassero solo per le ultime spiagge di Mihajlovic, dove la reazione nervosa c'è. Pier, io però ho quest'idea che poi oggi abbiamo esteso, almeno io ho esteso all'Inter, ma sul Milan io credo che dopo 21 giornate si possa anche cominciare a tirare qualche bilancio. Il Milan di quest'anno è questo. C'è poco da fare. Instinct. E questo, e poi alla fine, insomma, a parte Napoli, Juve, forse la Fiorentina, alla fine non è così distante dal Milan, e se l'Inter non avesse fatto la prima parte di stagione, magari senza brillare dal punto di vista del gioco, ma con tanta solidità, non sarebbe neanche così lontana dall'Inter. Quindi è una squadra ancora in divenire, secondo me c'è un'evoluzione, a differenza di quello che succedeva 12 mesi fa. La partita di ieri è una grande occasione persa, però sono d'accordo con te, poi alla fine Empoli non ha rubato nulla. No, assolutamente, ma episodi, è comunque incapace di tenere il risultato il Milan. Non ha... Tante volte abbiamo detto manca la personalità, ma la personalità si riflette anche in questo, cioè nella capacità di riuscire a portare a casa una vittoria che sarebbe stata importantissima e invece non ci sei riuscito per mille ragioni ed è stato giusto così, Pier. Sì, la qualità del gioco è modesta. Insomma, ieri l'Empoli comunque in certi momenti ha giocato meglio del Milan come atteggiamento e come voglia di aggredire l'avversario. Ci sono delle cose incoraggianti, delle cose positive, sicuramente questo 4-4-2 che poi in realtà con Niang in fase difensiva diventa 4-5-1 ha dato un po' di quadratura alla squadra, quindi secondo me diciamo il peggio è passato, però è quella lì, è in quella dimensione lì, vale la scusa Lazio, Pier, la scusa Pier, la Lazio è più forte. Scusa Pier, ma il fatto di utilizzare Niang soprattutto nella fase tra virgolette di copertura per andare su Maiello, secondo me ha tolto sia lucidità che forza e che soprattutto freschezza nel ripartire allo stesso Niang. Cioè questo ti dà l'idea di una squadra che ha nella preparazione delle sue partite più la preoccupazione soffocare le azioni di gioco del rivale anziché esaltare le proprie. Questo è, diciamo, ecco perché ieri cioè, una squadra che ha paura, dici tu Franco? È no, una squadra paura. Che ha paura ed è sotto pressione perché è sotto pressione. No, che ha paura. Questa è una squadra che sta avendo una mutazione genetica che non è condivisa. E cioè il fatto che ieri sembrava l'Empoli, il Milan capace di fare gioco, sì, eccetera. E il Milan travestito da Empoli che si difendeva tutto nella propria metà campo. Copione già visto in casa col Sassuolo, con l'Atalanta, vado a memoria le volte in cui Berlusconi scese negli spogliatoi a complimentarsi con gli altri. Hai notizie del termometro di Arcore tra ieri sera e oggi, Franco? Sì, credo che non ci sia proprio per niente soddisfazione, anzi il contrario. Naturalmente questo poi è una settimana che comunque passa attraverso la semifinale di Coppa Italia con l'Alessandria e il derby, per cui non è una settimana in cui si possono coltivare ipotesi pensieri di esonero. E così andrà avanti, vedrai. Ma quindi il derby sarà l'undicesima ultima spiaggia di Mihajlovic, cioè andiamo dritti al sodo. No, non credo che se dovesse perderlo, magari perderlo in maniera brutta, potrebbe anche provocare una decisione del genere, però a questo punto della corsa, secondo me, a questo punto io immagino che ci sarà Mihajlovic fino alla fine. Ma anche perché non vorrei essere poetizzante, ma la stagione del Milan è quella, il Milan va in Europa League. Che attraverso il campionato, attraverso la Coppa Italia, il Milan al 99% va in Europa League. Coltivare sogni più ambiziosi è molto difficile. Ci sono 8 punti, se non sbaglio, adesso di ritardo da Inter e Fiorentina, quindi serve una grande prestazione. Poi magari vinci il derby, puoi riaprire, però devi fare veramente un mega filotto di vittorie. Quindi andare fuori dall'Europa mi sembra difficile, andare oltre l'Europa League mi sembra difficile. Il Milan sta diventando, secondo me, abbastanza orgoglioso come prospettive di classifica. Sì, è una stagione tendente alla calma piatta. Meglio di un anno fa, sicuramente. Meglio di un anno fa, vuole poco. Sì, c'è di mezzo un mercato da 90 milioni. Credo che l'aggravante sia questa. Prego, Franco. Vorrei anche segnalare, Giovanni, che prima o poi bisogna affrontare anche quest'altro argomento. Risponderà qualcuno tra gli allenatori, tra i critici, tra i tifosi che avevano criticato Saponara, che avevano detto che questo è un giocatore che non poteva stare nel Milan. Ieri ancora una volta è stato uno dei migliori dell'Empoli. Voglio dire questo, che c'è anche quando tu incappi in stagioni come queste ultime del Milan, anche questa corsa a disfarsi di giocatori che magari in un altro contesto sono capaci di rendere al meglio, un po' come quello che succedeva nell'Inter ai tempi dei primi, del primo periodo della presidenza sì. Moratti, quando che si disfava venivano... completamente ogni volta la tela dovendo ripartire. Oggi segnalo, Suso ha fatto l'ennesima discreta partita col Genoa. A proposito di ex del Milan, grazie Franco. Ciao, saluti. Per non parlare di Balotelli, ieri 27 minuti, un'ammonizione, una punizione tirata sulla battuta, sulla barriera. È tornato, non sta giocando agli stessi livelli. Assolutamente. 800 24 00 24, 30 secondi, Andrea da Pistoia. Andrea, bene, prego. Buonasera. Ecco, benissimo, io sono stato ad ascoltarvi, avete parlato mezz'ora di Inter, sì, mezz'ora di Milan, ora mi parlate mezz'ora di Fiorentina, che ha 41. Assolutamente no, carissimo Andrea, noi parliamo di quello che vogliamo. Allora, dei bacini d'utenza, bella roba. A parte che noi non siamo schiavi di nessuno, comunque mi puoi dire una cosa? Mi puoi dire una cosa? No, mi aspetta, mi puoi dire una cosa? Perché io voglio parlare di Fiorentina e voglio chiedere ai fiorentini perché sono spuntati, è bastata una sconfitta con il Milan, è bastato un momento di flessione per contestare Della Valle. Allora parliamo di Fiorentina su questo tema, parliamone, perché non è che si tratta di leccare il culo a questo o a quell'altro, ragazzi. Non è che si tratta di dire bravi, belli, e poi quando perdono contestano la presidenza per motivi incomprensibili. Allora, parliamone. Aspettate, perché c'è il GR, facciamo così. Andrea, ci sei? Andrea, fermati. Palle, Andrea, facciamo così. C'è il GR, metti giù. Ti richiamiamo dopo il GR e parliamo. No, mezz'ora no, scusa, ma mezz'ora per la Fiorentina non parliamo. Andrea, ciao. Non dobbiamo pensare che Alessandria, ma dobbiamo pensare che vincendo andiamo in finale Coppa Italia. Grazie, Mihajlovic, alla prossima. Mettiamo una squadra. No, vabbè, non mi fate finire. No, una squadra che pensavo avesse finito. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Io voglio dire una cosa. Non lo so, non è facile. Se ci sarà ancora tempo, cercheremo dopo di analizzare il gioco di Milan. Ma io non ho la bacchetta magica di Harry Potter. E io non sono frucio. E con questo ho detto tutto. Tutti convocati. I ragazzi hanno questa capacità, però devono capire e non devono essere stimolati dagli avversari che si avvicinano, devono chiudere le partite, e visto che hanno, a tratti dimostrano di avere questa capacità, senza fare nessun tipo di calcolo, perché già al finale del primo tempo abbiamo smesso di fare il nostro gioco, ci siamo abbassati e le ripartenze diventavano faticose, lunghe e con meno possibilità di arrivare a buon fine, e poi tenere una squadra tecnica come la Sampdoria vicino alla nostra area era pericoloso. Quindi i ragazzi hanno questa capacità, però spero che la sfruttino in maniera anche un po' diversa. Insomma, anche Sarri non contento al 100% del suo Napoli. 800 24 00 24, prenotatevi, siamo ancora qui fino alle 19, seconda ora, parleremo del Napoli, parleremo di Juventus-Roma, parleremo anche della Fiorentina con Andrea da Pistoia, che abbiamo richiamato, che ci ha aspettato. Andrea? Sì, eccoti. Allora, c'è anche Pierluigi Pardo. Pier, ci sei? Ciao, sì. Eccoci, sì, ciao, prego Andrea. Sì, io volevo dire questo, perché altrimenti passo da triste, tifoso, non è il mio... Io non volevo parlare di Fiorentina, sono tifoso della Fiorentina, però ma perché non mi racconta il campionato che sta facendo Donadoni con Bologna, è una cosa incredibile, sì, ai miei occhi, perlomeno, perché non raccontate? Ma perché lo facciamo per tutta la settimana? Don Adoni è un nostro amico che viene spesso ospite. Quindi raccontatela la cosa sportiva. Andrea, cioè, tutti i giorni. Andrea, mettiamo sul disco. Andrea, domani. Andrea. No, ok, va bene. Allora prendiamo la classifica e dedichiamo 3 minuti a ciascuna squadra. Ci facciamo due palle così. Ma non è così. Non è così. Allora facciamo così. Andrea, non apre confusione Atalanta. No. Domani forse aprirà con Juve, forse aprirà domani con Juve Roma. Io lo dico con un affetto della Fiorentina, è vero, ne parliamo poco, ma tutte le volte che ne parliamo sottolineiamo una stagione fantastica e non ci sono dubbi, è una stagione fantastica. Paolo Sousa sta facendo cose leggendarie, sembrava si fosse interrotto il feeling, la vittoria di oggi mi sembra molto molto convincente. Se proprio ve lo devo dire, Daniele Pradè è un mio amico personale proprio, quindi figurati se c'è proprio non c'è questo tipo di ragionamento. Però bisogna, io questo discorso forse lo faccio in maniera troppo sincera, non è che ci sia, cioè, se uno fa un prodotto di tipo nazionale è ovvio che ci sono 5-6 squadre. Andrea, nel giorno in cui l'Inter prende l'ennesimo pareggio in casa contro il Carpi al 92esimo, mi dici su che cosa dobbiamo aprire? No, ma tu, Andrea, d'accordo, però vi faccio un'altra domanda. Ma voi vi rendete conto cosa può accadere nella testa di un non tifoso del Milan piuttosto che un non tifoso della Juve o dell'Inter ascoltare il giornalista che spiega perché Nyang ha giocato 10 metri avanti? Ma stiamo scherzando. E cosa? Cioè, di fronte avvenimenti sportivi, interessanti veramente. Sì. Poi lo capisco che il bacino d'utenza del Milan vale 6 milioni, quello dell'Inter 6 milioni e quello della Juve 11. Però ragazzi, cioè, ma voi avete anche la missione per... Sì, ma Andrea, è la stessa logica per cui i supermercati... No, Andrea, migliore degli altri. Grazie. No, non vi ascoltavo neanche. Andrea, però è la stessa logica per cui i supermercati li aprono nei quartieri popolosi e non in mezzo alla campagna. No, ma c'era... Ecco. Ma allora, Andrea, posso dire una cosa? Oltre, c'era, però, allora... La settimana scorsa, in questa settimana che abbiamo appena passato, che non è stata facile, allora io ho detto 1000 volte che mi ha sorpreso, a cominciare da lunedì, quando ancora non c'erano storie di Froce e di Finocchi, mi ha sorpreso moltissimo quello striscione di contestazione apparso a Firenze nei confronti dei Della Valle dopo un paio di risultati non positivi della Fiorentina. Vigliacco, se c'è un tifoso della Fiorentina, che ha alzato il telefono, mi ha chiamato. Allora, noi la pensiamo così e cos'ha. Per aprire un dibattito non c'è stato nessuno. Poi la Fiorentina vince una partita e allora non parlate mai della Fiorentina. Ma facciamolo volentieri. I microfoni sono aperti e parliamone. Poi lo salutiamo, Andrea, anche che ce ne sono altri. Passiamo Andrea, perché sennò non si sente nulla. Una cosa sola, 20 secondi. Che se c'è una cosa proprio specifica di tutti i convocati è che si parla di quello che si vuole, no, ma di quello che la gente chiama e parla. Difatti siamo qui a parlare di quello che dice Andrea. I tifosi della Fiorentina o del Torino o del Genoa chiamano e vogliono parlare di quello, se ne parla, non è che c'è una censura, anzi ti invitiamo a chiamarci spessissimo e a parlare di quello che vuoi. Quindi da questo punto di vista siamo anche veramente molto democratici. Questa cosa qui, io ripeto, la diciamo sempre, forse in maniera, certe volte mi dico, forse anche troppo sincera, perché magari può essere, però credo che sia invece onesto, è il motivo per il quale tutto sport apre con la Juve, la Gazzetta apre mediamente con Milan e Inter, il Corriere dello Sport ha l'edizione romana e parla di Roma e Lazio, l'edizione napoletana apre col Napoli. Se fai un prodotto invece di tipo nazionale, devi inevitabilmente ispirarti, ma non perché ci aumenta lo stipendio, ma per un discorso veramente deontologico, perché è il nostro lavoro, di parlare di quello così, che interessa il maggior numero di persone. L'importante, secondo me, è essere intellettualmente onesti. Cioè, se ci fosse da parte nostra o da parte di altri un atteggiamento che è sempre preconcetto a favore di una squadra e contro un'altra, al di là delle valutazioni tecniche, io ho detto che l'Inter quest'anno dall'inizio non mi convinceva, che la rispettavo perché otteneva risultati, ma non mi convinceva del tutto. Ma questa è una valutazione, magari fra un anno l'Inter sarà la squadra più bella del mondo, quindi anzi lo auguro ai tifosi nerazzurri. Quindi questa, secondo me, se c'è un ragionamento di questo tipo, ma non è il caso, perché la Fiorentina sta facendo benissimo e nessuno gli toglie nulla. L'ultima cosa che ti voglio dire, che per tutti i nostri amici uffici stampa di società, sì, che noi li aspettiamo tutti, noi siamo qui quest'anno doveva venire Pasquale a Tiki Taka due mesi fa, voleva venire lui, quel giorno lì c'è stato un problema e ancora oggi stai aspettando. Te, se ricevo adesso una telefonata da Elena Turra, il capo ufficio stampa della Fiorentina, che mi dice: ma vuoi il mister domani? Ma vuoi Kalinic domani? Se no te gli dico di no, no, ma gli dico di sì. Dai Pier, andiamo avanti. Luigi da Milano, 800 24 00 24, poi dopo c'è il traffico. Luigi, prego. Buonasera. Eccoci. Ah, bella, siete bravi, perché anche questo è un modo di fare cultura, parlare di lavoro di redazione col pubblico è eccezionale. Grazie. Comunque, al di là di questo, secondo me il problema dell'Inter è un problema un po' tecnico, cioè io vedo troppi passaggi sbagliati, troppa gente che a volte sembra un po' fuori posto, che vaga per il campo, mi manca un cambiasso, un uomo di ordine in campo che ha le idee chiare, dove non ci sono bisogno di pizzini per dire alla gente dove deve stare, che quello forse è anche un problema di comunicazione per le tante lingue. Mi fa piacere sentire la vostra opinione. Adesso te la diciamo, Luigi, grazie. Prima però Pier, ci fermiamo per il traffico, perché sennò ci sfumano. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24. Allora, risposta a Luigi da Milano. Pier, se manca Cambiasso o qualcosa di simile. E quell'uomo lì è stato un po' Medel nella prima parte della stagione, quando tutto funzionava bene, no? Poi con i suoi limiti, ma anche con le sue qualità, Medel è stata una delle rivelazioni della stagione dell'Inter. Io rimango convinto che il bilancio sia ancora positivo, ancora nettamente positivo, e quindi sono della linea di Genta. Secondo me il crollo non c'è stato semplicemente perché l'Inter non mi faceva impazzire oggi e non è da buttare tutta via adesso. È un momento che le cose sicuramente non vanno e che soprattutto rispetto a un paio di mesi fa sono cambiati i risultati, sono cambiati gli episodi. Cioè, una partita del genere con quello stellone positivo che l'Inter aveva all'inizio della stagione probabilmente 3-4 mesi fa l'avrebbe vinta, oggi l'ha pareggiata. Quindi secondo me è soprattutto questo, la squadra è molto migliorabile. Certamente il fatto che Mancini ha cambiato così tanto è una dimostrazione che le gerarchie non sono così definite. Sì, credo che oggi fosse la 20ª formazione in 21 partite. A parte Handanovic e, se vogliamo, Miranda, non ci sono giocatori dell'Inter che hanno avuto una continuità di rendimento così spaventosamente più forte degli altri, quindi le gerarchie sono abbastanza a rossetto variabile. Però sono d'accordo con l'ascoltatore, sicuramente in questo momento, insomma, un leader come quello darebbe un grande contributo. Chi non lo vorrebbe uno come Cambiasso, Pierluigi? Però mi sembra anche abbastanza fisiologico avere nel corso di un campionato un momento di flessione. In questo momento c'era l'Inter, ce l'ha avuto la Fiorentina stessa. Il Napoli vediamo, la Juventus è partita ad handicap all'inizio, poi ha cominciato a correre forte, quindi è abbastanza fisiologico, si tratta di capire quando ne uscirà, quanto dura. Salutiamo e benediciamo amatissimi figli, gli Elo in prima si sono sbagliati, avevamo sospetto. Cosa sono gli Elohim? Gli Elohim sono le divinità e ora saremo in grado di elargire perfettamente il giusto vaticinio sul futuro dell'Inter. Quindi non è lo scudetto, non è lo scudetto. Sentiamo qual è. Ripetete insieme a noi la formula. Utor Kalem. Utor Kalem. Mancini per Om. Mancini per Om. Frocio Dindon. Quanto arriva? L'Inter raggiungerà un posto nella Coppa dei Campioni. Chiama Champions, divino. Vabbè, salutiamo e benediciamo, amatissimi figli. Mi sembra che sta un po' scendendo. Assolutamente. Andrea da Perugia. Andrea. Sì, ciao, buonasera a tutti. Eccoci. Un saluto particolare a Pierluigi che ho conosciuto, io sono di Perugia e ci siamo visti a Perugia al Festival del Giornalismo, quindi lo volevo salutare. Grandissimo. Volevo fare una domanda sul Napoli, visto che comunque sta andando molto bene il Napoli, soprattutto Higuain, 21 gol, per carità, grandissimo campione. Non la peggiore stagione della sua vita. Peggiore stagione, no, infatti. Però volevo chiedere, visto che comunque la nazionale sta cercando un attaccante giovane italiana, da proporre, e Gabbiadini è a questo punto è un po' bloccato dall'esplosione definitiva di Higuain, e quindi volevo sapere un po' cosa ne pensavate voi di questo ragazzo del 91 che fatica a trovare un posto stabile. Abbiamo sentito Conte in interviste dire appunto che se un giocatore vuole essere convocato deve giocare, quindi volevo sapere un po' cosa ne pensavate voi di questa... Che è un meraviglioso sfortunato Gabbiadini, nel senso che si trova nel posto sbagliato nel momento giusto. Perché lui è forte, c'è poco da fare. No, ma anche però, insomma, come se sei lì in una squadra prima in classifica, ti conviene cavalcare l'onda, anche se giochi poco, almeno stringere i denti in questa stagione. Poi è evidente che se hai davanti un mostro e tu sei il backup di un mostro, A me piace molto, sono d'accordo con voi, è un gran peccato. Quindi o cambi aria, Pierluigi, o cambi aria come ha fatto Giuseppe Rossi in settimana. No, ma il Napoli non lo molla. Il Napoli ha rifiutato anche 22 milioni di euro per Gabbiadini. E allora stai lì. Anche Mertens oggi non gioca, oggi è entrato a giocare, ha segnato. Gabbiadini è in testa un'idea meravigliosa, come tutti i tifosi, tutti i giocatori del Napoli. È chiaro. In questo momento, da un lato, sì, certo, sta di più, dall'altro, però è un po' come avere, io ne so, un biglietto della lotteria che potrebbe portarti alla vittoria e buttarlo nel cestino. Quindi io penso sinceramente che chiaramente l'Europa League possa rappresentare per lui a questo punto l'occasione. Lui, secondo me, lo dicevo un paio di mesi fa, poi si è fatto male. No, forse anche 3-4 mesi fa, può diventare potenzialmente il capocannoniere dell'Europa League. In Europa League il Napoli dovrà fare grandissimo turnover e lui deve diventare il titolare di quel ruolo. Poi se basterà Conte, questo non lo so. È chiaro che sta perdendo delle occasioni, inutile già certo. Sì. Deve essere anche frustrante. Io adesso lo chiediamo a Giancarlo De Sisti, che saluto. Grazie Giancarlo. Buonasera. Mi chiedo... Napoli Fiorentina con De Sisti. Sì, Napoli Fiorentina. Ah, pensa, possiamo anche l'amico di Pistoia così è soddisfatto. No, sì, assolutamente. No, perché poi Conte forse può anche fare un ragionamento su Gabbiadini. Cioè, se Gabbiadini gioca bene le altre partite, quelle del Napoli 2, probabilmente si può anche pensare che se tu sei la riserva di uno che segna tutte le partite, puoi comunque venire buono per la nazionale, per l'europeo. Io non lo so, Giancarlo, come la pensi? Io penso che quello che stavate dicendo sono cose esatte, che questo è un giocatore, un giovane di valore, che ogni volta viene chiamato risponde presente, può talvolta avere magari qualche momento di insofferenza perché fare sempre la panchina, anche ad uno forte come Higuain magari non hai la non ti sfoghi, no? Ti rimane qualcosa nel tuo intimo per capire se in effetti quasi delle volte metti in dubbio anche la tua autostima. Sta diventando come fare il secondo di Zoffa all'epoca. Sì, Alessandrelli. Sì, lo so, magari potevi essere anche una certezza in una squadra dove giocavi sempre, ma lì c'è Zoffa e qua non giochi. No, ma per quanto riguarda gli attaccanti italiani, abbiamo visto, ho citato prima Giuseppe Rossi che stava facendo la polvere sulla panchina della Fiorentina, è andato via perché giustamente e legittimamente vuole giocare. Un altro è Zaza, che abbiamo visto in Coppa Italia in settimana, è stato il migliore in campo nella Juventus, che ha vinto a Roma con la Lazio. Quindi è un destino, però da una parte c'è davanti Higuain, dall'altra parte hai Dybala e Mandzukic, e questi stanno lì. Quindi l'alternativa: o cambi aria e fai come Giuseppe Rossi, vai a giocare da un'altra parte per cercare campo, oppure stai lì e magari vedi di portarti a casa uno scudetto, un trofeo. Ci sono quasi 6 mesi per l'europeo, anche forse di meno, anche qualche settimana abbondante di meno. Io credo che a questo punto, con quelle opportunità che ce le potrebbe avere, come dicevate prima, anche l'Europa League ed altre occasioni, uno stringe i denti e rimane dove sta proprio in funzione dell'europeo. Se invece capisce che non ci sono diciamo, aperture o spazi, io credo che a questo punto è meglio andare, farsi dare in prestito, farsi dare in comproprietà, andare a giocare, perché se no bisogna puntare al prossimo mondiale, sì, no? Come dire. Andare a giocarsi le proprie carte. Che impressione ti ha fatto il Napoli oggi? E anche la Fiorentina, adesso dell'Inter abbiamo parlato a lungo e insomma i segnali sono abbastanza negativi, però ad esempio dal Napoli ci si aspettava una risposta dopo una settimana particolare, al di là delle polemiche, l'eliminazione con l'Inter, qualche segnale soprattutto dietro su cui magari riflettere c'è stato, però il Napoli è sempre lì. Il Napoli globalmente ha fatto una buona partita, ha mollato in talune circostanze quasi la presa sulla partita stessa, lasciando anche questa reazione talvolta anche logica alla Samp. Si aveva l'impressione, vedendola, io l'ho vista ovviamente in televisione, si aveva l'impressione di che il Napoli, qualora avesse mollato degli spazi, avrebbe pagato un dazio, così come è stato pur contro il Napoli con 10. Però ecco, diciamo, nei momenti in cui hanno mollato, a volte forse si beano di quanto sono bravi. Madonna quanto siamo bravi con questo possesso di palla che talvolta sembra quasi una melina, no? Come la chiamava Lidl, ma sì, ai suoi tempi, proprio per liberare spazi. Poi vedere Higuain che se magna 3 gol, lui che sì, ma meno male che ogni tanto sbaglia, perché se no lui che è uno spietato di sotto porta. Io voglio fare questa domanda, la voglio fare a te, la voglio fare a Pierluigi Pardo, sì. Cioè, se con oggi forse cominciamo ad avere una classifica che ci ha dato delle risposte, cioè ci sono Juve-Napoli che giocano per il primo posto, Inter-Fiorentina, magari la Roma, perché se poi l'Inter rallenta così resta in gioco anche la Roma che giocano per il terzo posto, e dietro c'è il Milan che cerca di capire quale possa essere la sua dimensione, cioè cominciamo a cristallizzarlo questo campionato, Pier, poi desisti. Sì, mi sembra che la logica stia venendo fuori. A me in questo momento, io c'era una cosa che non capivo, che era l'Inter, quindi in questo momento invece ho tutto abbastanza chiaro, ci sono due squadre che sono nettamente superiori a tutte le altre. Mi ha sorpreso la Roma, io mi aspettavo che, come sapete, non l'ho mai considerata la favorita per lo scudetto, però pensavo onestamente che avesse una classifica migliore, e quindi questo è abbastanza sorprendente. La Fiorentina continua a fare il campionato che penso che possa fare, cioè un ottimo campionato dove ogni tanto, soprattutto quando si addensano gli impegni, emerge il fatto che a livello di rosa insomma ha qualcosina in meno secondo me delle prime due, però rimane un campionato di altissimo livello e io in questo momento non la vedo dietro all'Inter, tanto per essere chiari. Sì, poi attenzione alla Lazio, perché secondo me la Lazio, che nella prima parte della stagione ha buttato via una quantità di punti, ha avuto mille casini al suo interno, per me la Lazio tecnicamente è una squadra che vale. Sì, Lazio che però vale è dietro 10 punti in questo momento. Roma, sì, meno 4 da Roma, meno 2 da Milan. Insomma, voglio dire, se rigira un pochino la ruota, secondo me è una squadra. Sì. Oggi è abbastanza fortunata, soprattutto sugli episodi arbitrali. Partita che è girata su due chiamate arbitrali, una sbagliata e l'altra, insomma, che si può discutere. Fammi chiudere con Giancarlo Desisti sulle prospettive. Se la Fiorentina a questo punto con l'Inter e la Roma è per il terzo posto e se è tutto chiaro. Ma io credo che tra un pacco di minuti avremo la risposta importante, perché qui sembra che col rientro di Spalletti si sia rigenerato un nuovo entusiasmo a Roma. Sembra che la riproposizione di schemi antichi con giocatori nuovi sembra che possa rappresentare una risorsa per questa squadra. Se la Juve vince stasera, quelle linee guida che state suggerendo si confermano e penso che sarà una lotta a due. La Fiorentina non so se è attrezzata, la Roma però io penso che all'inizio fosse stata costruita proprio per essere grande protagonista, poi diciamo, sì, dopo un po' è uscito di scena. Vi ricordate l'anno scorso quando è stato preso i Turbe? È stato preso i Turbe dal Verona e sembrava che l'averlo soffiato la Juventus cambiasse la storia, cambiasse la storia delle due società, no? Sì. E poi è andata come andata. Mai previsione fu più sbagliata. Quest'anno con Dzeko. Allora, nuovo entusiasmo, così sembra che ci sono due giocatori per squadra forti. La realtà è che io oggi ho visto degli spezzoni del Sassuolo. Il Sassuolo senza Missiroli, senza Magnanelli, senza taluni protagonisti, fa fatica anche lui. Perciò i protagonisti, chi ha più rosa... Sì, contano, assolutamente. La Juventus obiettivamente c'ha più rosa. Se vince stasera si torna di nuovo alla grande, ha ragione Allegri quando dice che ammazza la Roma. Grazie Giancarlo. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie Giancarlo De Sisti, ciao Pier. Ciao ragazzi. Con te ci risentiamo domani dopo il GR delle 14. Ma sì, sono Dino Zoff. Sì. Ho sentito che Picchio De Sisti mi ha citato, allora sì, voglio portare un tocco di allegria, di vivacità in questa trasmissione, visto che sono sempre stato considerato un allenatore molto ciarliero, racconto tante barzellette. E quindi cosa ci vuole lasciare come testimonianza? Tanta vivacità. Ci ritorniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Un'estate fa la storia di noi due. Yeah! Ma l'estate va e porta via con sé. Traversone per Dzeko che prende posizione di Dzeko. Un'estate fa. Che eravamo in una condizione psicologica diversa da quella che siamo ora, però nel calcio si fa presto a rovesciare le cose e di conseguenza noi bisogna essere bravi a non pensare quello che abbiamo fatto negli ultimi due mesi, ma a pensare quello che dovremmo fare da qui a fine stagione. Le intenzioni della Roma sono di andare a fare la partita e di giocarla contro una squadra che sta attraversando un grandissimo momento. Non si ribalta una situazione così solo con le potenzialità della squadra. La Roma innanzitutto è ancora candidata a vincere lo scudetto perché ha una rosa, importanti giocatori sotto l'aspetto tecnico, ha cambiato l'allenatore e sicuramente ci sarà una reazione. Buffon ha detto è l'occasione giusta per far fuori praticamente la Roma dalla lotta a scudetto. Noi la pensiamo allo stesso modo suo, è l'occasione giusta per rientrare in corsa per degli obiettivi importanti. Io non so se vi ricordate un'estate fa, dove eravate, 30 agosto 2015, Roma-Juve 2-1, Pjanic, Dzeko, Dybala, Garcia 5 punti, Allegri 0 e il mondo sembrava rovesciato. Paolo Liguori, Massimo Zampini, ciao a tutti e due. Ciao. Buonasera. Ve la ricordate un'estate fa? Io non so chi vuole cominciare, magari chi ha più nostalgia, Paolo. No, forse è meglio che cominci a Zampini, che è in testa alla classifica. No? Facciamo cominciare. No, non è in testa, è secondo. È secondo, ma sta viaggiando verso la testa. Massimo. No, comincio ricordando bene, ricordo molto bene quel periodo e ricordo certo la Juve era in difficoltà e ha molti assenti. Faceva caldo, era un altro mondo proprio, però ci ho detto le potenzialità della Roma, le potenzialità quelle erano e quelle sono, e questa ragione Allegri non lo fa solo per scaramanzia a dire che la Roma è ancora in ballo. Poi è chiaro, man mano passa il tempo, si è sfilacciata, perdi punti, man mano non avrà più chance, non si riprende, però io credo che oggi sia il bivio decisivo per la Roma ancora più che per la Juve, perché se si riprendesse improvvisamente, magari per Spalletti eccetera eccetera, ti porti a meno 4 alla Juve, insomma tutti altri obiettivi. Se invece oggi va male, la Roma secondo me va veramente a rischiare di perdersi, poi nelle polemiche che Paolo conosce bene a Roma come diventerebbero nei giorni seguenti. Sì, Paolo. Sì, guarda, qui le cose sono, come dice Zampini, stasera per la Roma è dentro o fuori. Cioè, se fa risultato, anche insomma, se non perde a Torino è ancora, come dice Allegri, le potenzialità ci sono. Se invece dovesse perdere stasera, va a 10 punti dalla Juventus, naturalmente ancora di più, a 12 dal Napoli, e può sperare forse tranquillamente, riassettando il gioco, di puntare forse al terzo posto, forse. Ma però io credo che invece nelle potenzialità della Roma, già da quest'estate e già da prima dell'estate, ci fosse un grande punto interrogativo che è esploso poi nel corso dei mesi dell'autunno. C'era la potenzialità dell'organico, l'allenatore, ma non c'è la società. Non c'è la società nella Roma, lo si vede da tanti mesi, e lo si vede anche dalle polemiche, quelle che tu chiami le polemiche dei tifosi o giornalisti, sono in realtà soltanto alimentate dal fatto che la società non c'è, non difende, non interviene, segue un suo percorso assolutamente astruso. Stiamo osservando in questi giorni una sequenza di attaccanti pronti per la Roma, che la Roma sta trattando, attaccanti che fanno plusvalenze, provvigioni, tutti attaccanti che fanno provvigioni, plusvalenze, la Roma praticamente non ne avrebbe bisogno, avrebbe bisogno di difensori, ma i difensori fanno meno plusvalenze, meno provvigioni. Questa è una situazione intollerabile, non per i tifosi o per le radio o per i giornali, ma per chi se ne intende un po' di calcio. Sì, un po' guarda al calcio, è una squadra incompleta e incompiuta la Roma, Paolo. Un po' guarda al calcio, sì, ma a parte incompleta e incompiuta, sta lavorando ancora la dirigenza della società a peggiorare le cose, e l'allenatore ormai da molti anni a Roma, ora Garcia, ma vi ricordate anche Spalletti prima, e Zeman non ne parliamo neppure, è il capro espiatorio che di volta in volta viene buttato in pasto, certo, alla critica. I giornalisti romani, le radio romane, l'ambiente romano sono lì come pronti a fare esattamente il loro lavoro sempre, cioè mai a guardare dietro il paravento di queste cose, ma sempre pronti ad assaltare alla gola Garcia, Luis Enrique, Luis Enrique è passato per Roma, è il miglior allenatore d'Europa, no, forse del mondo, certamente guida la squadra migliore del mondo, però direttore dicono a Barcellona i cronisti che il suo Barcellona è più forte di quello di Guardiola. Io sono anche d'accordo. Sarà vero, non sarà vero. Però direttore, se la Roma vincesse lo scudetto, cioè se la Roma fosse ancora in corsa per lo scudetto, sarebbe la prima volta nella storia del mondo che una squadra senza guida e senza società riesce comunque a pensare di poter vincere uno scudetto. Ma difatti non ci riesce più dai tempi dell'ultimo Sensi, e Spalletti si è trovato lì da solo, gli è mancato sempre un pezzettino, e poi alla fine si è dovuto andare in modi molto misteriosi, ma in realtà molto chiari, perché osservava ed è stato così. Al contrario, la Juve ha una società forte, una dirigenza forte, arriva Allegri, non piace a nessuno, all'inizio lo contestano, la società si schiera, si blinda su Allegri, in tre anni Allegri praticamente è come Conte, qualcuno dice anche meglio, cioè esattamente quello che succede al Barcellona, perché c'è la società, perché c'è la squadra, vedete come va il Milan, che certamente va peggio della Roma per certi versi, però la società c'è, ancora in qualche modo c'è, e Mihajlović che c'è lì, c'è direttore. Vediamo, ieri sera il barometro torna sulla tempesta, a proposito di ultime spiagge. Milan è una situazione veramente dal punto di vista delle potenzialità molto diversa da queste squadre di cui parliamo. Vedete che invece il Napoli ha una guida abbastanza solida, in questo caso un uomo solo al comando, e ha ingranato. Il trauma Benitez l'ha superato, ha preso Sarri e si è data una direzione. Intanto se volete aggiorniamo anche il barometro della proiezione Scudetto, che interessa molto gli juventini. Oggi addirittura Tutto Sport, Massimo diceva: siccome Allegri dice che lo Scudetto si vince a 82 punti, servono 12 vittorie e 4 pareggi. Oggi la proiezione è 85. Cosa significa questo? Che anche stasera, al di là di ammazzare la Roma o meno, in realtà la Juve continua a giocare contro la sua partenza di stagione, che la costringe a non sbagliare mai. Esatto, quindi oggi viviamo così. Infatti il mio timore sulla partita di questa sera va ancora più che tecnico. Ho detto le potenzialità della Roma ci sono e magari Spalletti la rivitalizzerà, però la Juventus è in grandissima condizione. E le chiamiamo riserve come Zaza, Morata, forse Alexandro, gente fortissima a mio parere, ed è in condizione strepitosa. Il vero rischio è che prima o poi la serie di vittorie infinite prima o poi terminerà, ma questo non è scaramanzia, questo è un dato purtroppo umano e statistico, e c'è un inseguimento continuo e tu sei ancora secondo, sei ancora, se perdi punti ancora abbastanza lontano dalla prima, se vinci sei a due punti, però è faticoso psicologicamente non poter sbagliare mai mezza partita, perché oggi c'è la Roma che si difende bene e riparte, ti può fare paura, e tu perdi dei punti con Napoli che si allontana, pure se hai fatto tre mesi incredibili adesso. Quindi questo è un rischio secondo me che viviamo e che finché non li superiamo eventualmente vivremo con grande fatica. Ma vedi qualche segnale di affaticamento? Ci sono state due partite in cui qualcosa si è visto, e Allegri con quegli scatti a fine partita in parte lo aveva anche confermato, poi è arrivata Udine e di nuovo diciamo si è invertita la tendenza. Ma guarda, io la vedo bene la Juve, mi sembra che ancora fino alla fine, l'ho vista anche in Coppa Italia con, tra virgolette, i rincalzi, perché ripeto, i nomi non sono rincalzi, è una squadra che sta bene, molto paziente, gioca serena, arriva comunque a fare gol, a essere pericolosa, e soprattutto, ripeto, penso che poche squadre al mondo abbiano un'alternativa a sinistra tra Evra e Alessandro, a destra tra Schneider e Cuadrado, davanti Gonzalo e Morata in panchina. Una rosa forse che abbiamo sottovalutato anche se Massimo, mi pare che la Juve abbia abdicato all'idea sul mercato di trovare quell'uomo per fare il salto di qualità subito. Sì, probabilmente è complicato a gennaio, secondo me. Infatti tu mi chiedessi cosa serve, dico che ora che vedo un Pogba, Marchisio e Chiedira stare bene mi sembra nulla. Poi le volte che non c'è uno dei tre mi accorgo che forse là manca un grandissimo rincalzo. Sì, serve un po' di buona sorte. 800 24 00 24, magari facciamo un Moreno da Grosseto prima del traffico che ci aspetta da tempo in memore. Moreno, prego. Pronto, buonasera. Eccoci. Buonasera. Gli diamo il premio per la pazienza. Buonasera. Prego, Moreno. Va bene. Dunque, io sono un interista, ma sono un grande pessimista, perché a ottobre, quando tutti, ottobre e novembre, lo davano questa classifica, io ho sempre detto che questa squadra non arriverà terza. Questa è una squadra che non arriverà in Coppa, nella vecchia Coppa dei Campioni, come il diavolo si chiama. E questa è una squadra che rischia anche da un punto di vista economico, ma lasciando perdere questo aspetto che non compete, lasciamo perdere per una serie di discorsi di macroeconomia, no, anche perché è il mio lavoro, comunque a parte questo, questa è una squadra costruita male, e chi l'ha costruita se ne deve prendere ed assumere le responsabilità. Questa è una squadra che non gioca, non ha mai giocato, questa è una squadra che oggi con questa, con il Carpi aveva preso un gol regolare e c'era un rigore per il Carpi. Sì, su questo sono un po' meno netto, secondo me. Parliamo del colpo di braccio di Murillo a mezzo metro da chi tira, però per carità, si può anche discutere, ma bastava diciamo il fatto che Handanovic ha chiuso il primo tempo da migliore in campo per dire che non è stata una buona Inter. Grazie Moreno, ma a maggior ragione per questo mi ha stupito poi l'attacco di Mancini ad alcuni giocatori. Facciamo così, ci fermiamo 30 secondi che c'è il traffico, poi chiudiamo il discorso su Juve-Roma di questa sera. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Le due palle che abbiamo avuto per chiudere, cioè, sono state clamorose. Se giocavo io a 50 anni forse facevo gol. Quindi quando si gioca con la Roma, con la Juve, si deve guardare tanto quando si gioca col Carpi, per non dargli la possibilità di avere occasioni per fare gol. Questo noi dobbiamo migliorare, perché insomma adesso non lo stiamo facendo, ecco, certe partite, cioè a Napoli eravamo concentrati e tutto, oggi cioè, i giocatori offensivi devono difendere, perché se non difendono giocheremo con un attaccante da mercoledì in poi e basta, gli altri stanno in panchina, perché se non facciamo questo la squadra soffre, tanto gol non ne facciamo, quindi dobbiamo cercare di essere molto più veloci nell'avere le occasioni e far gol quando ci capita. Questo è un Mancini furioso, le dita. Io voglio di chiedere una cosa a Paolo Liguori. Sì. Direttore, ma fanno bene gli interisti a essere così depressi e a prendersela soprattutto con Mancini? Quello perché quello che ha telefonato non è depresso, quello che ha telefonato è molto lucido, e molti interisti la pensano come lui. E Mancini, l'avete sentito questa cosa, lo farei io a 50 anni. Questo è il motivo per cui Mancini, anche quando ha sacrosanta ragione, come a Napoli, poi gli danno tutti addosso, perché fa di tutto per rendersi insopportabile. Ma che razza di discorso è? Facevo il gol, non facevo il gol a 50 anni. Tu sei l'allenatore, devi dare il gioco della squadra in campo. E il tifoso dice: io non vedo il gioco dell'Inter, lui che è il tifoso interista, ma non lo vedo neppure io. Quindi hanno ragione a contestarlo, secondo te? Ma hanno ragione totalmente quello che ha detto Moreno, che non lo contesta, dice la verità. Cioè tu mi devi mettere in campo una squadra che fa il tuo gioco. e invece Mancini ha questo tono un po' strezzante, per cui quando pareggia, come questa volta, alla fine che fa? Dice che è colpa di quello che non ha saputo fare un gol che sapevo fare pure a 50 anni, ma lui a 50 anni deve farci vedere il gioco. Poi il gol viene, non viene, uno potrà sempre dire: io ho visto Inter-Roma, l'ha vinta l'Inter, insomma la Roma ha fatto un gioco, l'Inter ha fatto un gol, va bene, ha fatto un gol, ma gioco non ne ho visto. Su questo mi dispiace, ma quel tifoso lì ha ragione. Però ha il merito di essere un uomo società. Sì. Un uomo società non lo so se lo è, perché poi alla fine se dividi lo spogliatoio, se dividi le persone dai tifosi, sì, può darsi che comunque l'Inter ha bisogno di un uomo così, perché la presidenza è uno che è molto distante, discorso è molto di distante prima, no? Certo, in questo caso fa comunque gioco. Grazie direttore. Ciao direttore, grazie. Grazie a voi. Ma Massimo, ti ricordi che un'estate fa la Juve temeva anche l'Inter per lo scudetto? Io non so se con oggi da juventino ti senti insomma di chiudere quel capitolo. Ma no, che non lo chiudo. No, non direi visto? Perché l'Inter... Questa è una meravigliosa bugia, hai visto, te l'ho detto. No, però l'Inter effettivamente ha due punti. A oggi in questo momento è un punto alla Juve, quindi la Juve deve giocare, va bene, però definirla fuori dalla lotta mi sembra eccessivo. No, però alcuni segnali sono chiari. Esatto, là probabilmente, cioè, diciamo che la Juventus gioca meglio dell'avversario, che so, 7-8 volte, 9 volte su 10 meriterebbe la vittoria, e in questo periodo le sta andando tutto bene. L'Inter lo fa, secondo me, la metà delle volte. A volte soffre, davvero. Io l'ho vista a Empoli, l'ho vista in alcune partite dove veramente non avrebbe meritato di vincere, tranne avere un grande portiere, ed è un merito, questo non è una fortuna. Però, insomma, sì, dal punto di vista del gioco l'Inter non mi convince del tutto. Forse sta perdendo anche un po' di compattezza, anche queste frasi di Mancini non aiutano. Però per ora è ancora lì, che vi devo dire, escluderla è complicato. Mercoledì semifinale allo Stadium. Ho scoperto oggi che contro le grandi allo Juventus Stadium l'unica a non perdere due volte è stata l'Inter. Un pareggio e una vittoria. Tutte le altre su 22 hanno pagato partite, dazio. In 20 hanno perso, 20 volte insomma ha vinto la Juve nei confronti di alto livello. Una volta l'Inter ha pareggiato e una volta l'Inter ha vinto. Io non so se questo può servire. Con Stramaccioni, no? Con Stramaccioni. Io non so, Massimo, se questo può servire a dare anche un senso a che cosa andremo a vedere poi mercoledì. Beh sì, comunque Juventus-Inter sembra una frase diplomatica da calciatore, però è vero che è una partita strana, perché negli anni, per esempio, post-Calciopoli, dove la Juve era obiettivamente molto meno forte dell'Inter, spessissimo poi la Juve vinceva la Juventus. Esatto, quindi in particolare io mi ricordo la Juve di Ferrara che fa un 2-1 sofferto lottando fino ai denti, insomma, quindi non è detto. Poi per questo io temo anche la Roma questa sera, perché sono partite talmente particolari che poi vai a capire se contano solo le valori. C'è anche grande scaramanzia, Massimo, dai, diciamo la verità. Buona partita, prudenza. Prudenza confonde con la scaramanzia. Assolutamente. 800 24 00 24. Carlo da Carpi. Carlo, buonasera. Eccoci. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Complimenti per il Carpi. Grazie. Io volevo chiedere, ho sentito parlare dell'Inter, i meriti dell'Inter, eccetera. Volevo chiedere i meriti del Carpi. So che tanti. Parlo da tifoso e forse, però per noi oggi è stata quasi una vittoria in Champions League, voglio dire. Sì, ma anche più di una vittoria in Champions League oggi, grandi meriti, poi evidentemente ci sono anche i demeriti, perché quando tu pareggi a San Siro vuol dire che la grande di turno ci ha messo del suo, però io credo che il merito più grande del Carpi sia, malgrado tutto, malgrado le ironie, malgrado la classifica, malgrado i cambi di allenatore, di non smettere mai di crederci e di lottare, questo è un grandissimo merito. Certo, un po' come Peter Fili ieri a Kitzbühel. Bene, speriamo che sia ancora buono qui sull'Ausberg, dove c'è il cronometro ad attenderlo. In linea 18 incrementato, deve correggere un po', adesso però è qua che conta. Ammorbidisci l'azione, bravo, adesso se riesce a mollarli. Leggermente basso. 32, l'ha fatta benissimo perché le ha mollate, ha trovato il compromesso ideale, via, vola al traguardo Peter Field, andiamo al comando davanti agli svizzeri, ed è davanti, 37 centesimi, e voilà, grande Peter. Paolo, che, allora, eccolo qui, esultiamo anche noi, questo è grande. Questo è Peter Phil e questo è Christian Ghedina. Ciao Christian. Ciao Chris. Ciao ciao. Primo dei tre italiani a vincere sulla Strife, dove ci vuole fegato. Ieri abbiamo visto tre cadute paurose. Oggi si è fatto male Razzoli, si è rotto il legamento del crociato del ginocchio sinistro. Stagione finita. Ieri ci voleva coraggio per fare quello che ha fatto Peter Phil. Diciamo che ha sfruttato il momento, ha sfruttato l'occasione, perché lui aveva un numero ancora relativamente buono ed è stato bravo, ha sciato bene, ha passato via in quel punto dove sono caduti gli altri indenne e ha sciato alla grande, è stato forte. Ma è davvero come prendere la tesi di laurea a vincere sulla Strife? Ma la Strife è una gara diversa da tutte le altre. Sì, lì qualcuno, io non mi ricordo se era forse un vecchio decisista generazione, una o due generazioni prima di me, o se fosse stato Herb Plank, dicevano che chi non, almeno non partecipava una volta a Kitzwell non poteva considerarsi un decisista. Poterla vincere è ancora qualcosa di incredibile. È come Monte Carlo per la Formula 1, è come la Parigi-Roubaix per il ciclismo. È una sorta di pazzia, perché è comunque un grandissimo rischio non sempre calcolato. Sì, esattamente. Devi essere bravo a non andare oltre. Bisogna sempre cercare di restare lì sul bordo del precipizio. Che nel senso devi andare al massimo, però non devi mai oltrepassare il tuo limite, perché oltrepassare il tuo limite vuol dire cadere e farsi male, perdere magari anche una stagione, come purtroppo è successo agli altri due atleti. Tre atleti. Sì. Ieri poi la Coppa del Mondo ha perso Svinda, quindi non uno qualsiasi, ma uno dei protagonisti in lotta per la vittoria finale. Ma c'è ancora la cabinovia col tuo nome, che è uno dei privilegi per i vincitori. Esattamente, c'è ancora, sono andato anche io a vedere la gara ieri e ho guardato, c'era anche perché sono andato in partenza e ho visto la cabina, sì. È un onore anche per quello, poter vincere chi, con tanti atleti che corrono ancora adesso. Forse l'ambizione più grossa è proprio poter dire avere anche io sulla cabina Kitzwell. Sì, sì. Andate lì e fate lo ski pass apposta per andare a controllare se non l'hanno tolta. Grazie Christian. Ciao Christian, grazie. Grazie a voi, ci sentiamo. Grazie a Christian Ghedina. Leggendario. Primo dei tre italiani a vincere sulla Strife. Come la dove ci sono i nomi sui tornanti, no? I nomi dei vincitori nella storia su quella sacra montagna, quindi è uno di quei luoghi dello sport in cui che scrivono le leggende. Scrivono la storia. Noi ci dobbiamo fermare. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi, Paolo Corleone in regia. Poi vi ricordo sempre domani dopo il GR delle 14 e domenica alle 17, dalle 17 alle 19, quando torniamo noi c'era anche Andro Mercu, che ringrazio per le sue meravigliose voci. Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli. Gli Elohim hanno modificato la profezia elargendo il vaticinio finale sull'Inter. L'Inter quest'anno resterà in Serie A. Ah, però.